Io darei, proprio perché si va da, dopo nel dibattito interverrà anche De Codor, ma darei prima la parola a Burgio, perché insomma, è stato citato in ballo talmente tante volte che mi sembra corretto, anche perché sono passate ore a questo punto. Ringrazio comunque dell'attenzione incredibile che c'è. Alberto. Grazie. Io tornerei dopo questi interventi ai nodi che avevamo posto e comincerei con osservare che come in un gioco di specchi che mi ricorda un po' Tommaso d'Aquino, Marco Revelli mi attribuisce una concezione dei rapporti tra la società e lo Stato, tra il mercato e lo Stato, che io evidentemente erroneamente attribuisco a lui, però ecco, mettiamoci d'accordo, non è la mia, io leggevo e tendo a leggere così la tua posizione. E, debbo dire anche che però la posizione tua e di Aldo, che è diversa, io per comodità e rapidità e me ne scuso, sommarietà le assimilo, mi pare invece stare dentro, per l'appunto, e paradossalmente, questa schematizzazione che tu attribuisci a Hegel. Io non attribuisco a Hegel, ma semmai al pensiero liberale, che legge Hegel come lo leggi tu, per l'appunto questa distinzione tra Stato e mercato. C'è una tua affermazione caduta non a caso dentro il tuo intervento quando tu dici il luogo della politica è oggi lo Stato nazionale. Ecco, per me no. Capisci? C'è una per te il luogo della politica è lo Stato e il luogo di qualcos'altro è la società, quindi come vedi io non è che faccio proprio, come dire, una forzatura nel leggerti e nell'attribuirti questa distinzione. Per me invece, che leggo evidentemente diversamente Gramsci, per me la politica è tanto nello Stato quanto nella società, questa è la mia posizione. Ora, apprendo, sento parlare Alfredo Salsano per la prima volta e devo dire che anche in Alfredo Salsano io colgo esattamente questa distinzione tra Stato come politica e la società come luogo di altre dinamiche e altre pratiche. Perché? Perché? E qui entriamo nel vivo, secondo me, e nel nocciolo di questa discussione che a me pare importante. Salsano usa una metafora spaziale che a mio modo di vedere è, come dire, non so se perspicua, forse invece fuorviante, ed è l'idea del basso e dell'alto. Ecco, per me, ancora una volta, dico, non c'è un basso, non c'è un alto, non ci sono le istituzioni sopra, non c'è il cielo sopra e la terra sotto. Per me le istituzioni innervano l'interazione sociale, la politica sta dentro, non c'è questa, appunto, questa distinzione che certo ci serve per approssimarci in termini, come dire, di metodo analitico, però poi se non la superiamo e la ipostatizziamo, la scambiamo per delle realtà, ci fuorvia. Io tenderei a criticare questa posizione suggerendo invece l'adozione di un'altra forma di coppia, di polarità, non alto-basso, non Stato-società, non Stato-mercato. Per me queste sono cose che non ci spiegano, devo dire che leggiamo singolarmente Polanyi in maniera completamente diversa, perché se c'è una cosa che abbiamo imparato da Polanyi è proprio il fatto che dentro il mercato sta la politica. Allora, che cosa diventa se ce ne convinciamo? Anzi, se ce ne convinciamo ancora di più, non lottiamo neanche. Il problema è: che cos'è stato il welfare? Io non credo neanche a questa storia del compromesso socialdemocratico. Devo dire che secondo me in un tempo in cui si celebra la morte delle ideologie e delle grandi narrazioni, noi stiamo producendo la più pericolosa delle grandi narrazioni. Questa del fordismo e del post-fordismo, raccomando un libro che è uscito in Germania l'anno scorso, di un coreano che spiega appunto come questa idea stessa del post-fordismo sia un'idea assolutamente, come dire, che sta agendo da oscuratore dell'analisi, ma non vorrei adesso uscire dal seminato. Per me l'idea del welfare è i diritti sociali. Esiste l'idea che la casa è un diritto, che la sanità è un diritto, che la istruzione è un diritto, che il lavoro è un diritto. Benissimo, io vorrei capire perché e per quale motivo una lotta per la generalizzazione, anzi arrivo a dire per la universalizzazione di questi diritti non debba essere la nostra frontiera. Se lo deve essere, io la chiamo una lotta per la universalizzazione del welfare, però per me questa è la frontiera. Se non lo deve essere, mi si spieghi perché. ma naturalmente se lo deve essere, è centrale, come voi comprendete, per l'appunto l'idea di diritto che ci rinvia a quella coppia di generale e particolare, perché l'idea del diritto è che è qualcosa che vale per me nella misura in cui vale per te e vale per tutti. Questa è secondo me la posizione. Allora, per questo io sono contrario a questa idea del dono e del no market. Io non ci credo a questa cosa. Anzi, credo che sia, se mi consentite, il segno di una critica regressiva del capitalismo. Esistono, come voi sapete, la possibilità di criticare il capitalismo da destra. Ora, io amo parlare chiaro. Secondo me questa è una critica antimoderna e regressiva del capitalismo. Perché? Perché? Perché i teorici del dono e di questo scambio, certo non gratuito, certo non disinteressato, ma di uno scambio che non pretende il risarcimento, che non si dota delle garanzie del risarcimento. Ecco, io vorrei capire una cosa. Vorrei capire una cosa. Come nel momento in cui io dono, mi tutelo rispetto al fatto che questa reciprocità, che giustamente è stata chiamata in causa come l'elemento saliente della interazione sociale e della interdipendenza, come io mi doto delle garanzie perché questa reciprocità venga rispettata. Certamente interdipendenza, certamente reciprocità, però ci vogliono le garanzie, ci vuole l'uso, come dire, della coazione e della sanzione. Scusate, ripeto, parliamoci chiaro, perché se c'è il paradosso della sinistra è che la sinistra è costituita da soggetti che hanno donato per secoli e che continuano a donare, e che se hanno un problema, Salsano, è esattamente quello di avere le garanzie perché questo dono sia risarcito, sia restituito. Questo è secondo me il problema, oppure vuol dire che veniamo da storie davvero completamente diverse, ma non storie personali, idee, come dire, idee dell'esperienza collettiva completamente diverse. Dice Salsano, meno mercato, meno Stato, più legame sociale. Io non capisco, appunto, ripeto, Stato, mercato, secondo me sono delle grandi generalizzazioni, ma per me, e anche delle astrazioni, ma io non vedo nemmeno il legame sociale come qualcosa che mi fa capire, ma il legame sociale è anche il legame fra il padrone e il servo. Il legame sociale è anche la interdipendenza più asimmetrica, più deemancipativa, più violenta. Allora, come lo connoto io il legame sociale progressivo, emancipatorio, liberatorio, se non appunto ricorrendo a quella logica, a mio modo di vedere appunto, che è la logica della generalizzazione, è la idea, scusate, è vero, non saranno grandi novità, io non credo peraltro che si debba produrre per forza della novità, anche perché io credo che tutto sommato esistano anche delle logiche di lungo periodo, insomma, e per me questa del diritto e della generalizzazione dei diritti concreti e dei diritti materiali, che è la nostra storia, rimane effettivamente il problema, non regredendo nella mistificazione del legame che in quanto tale sarebbe un valore, ma il legame è anche il legame fra me e mio padrone, insomma. Devo dire a Marco Revelli, c'è un articolo estremamente significativo di Giuliano Amato, uscito sulla Repubblica una settimana fa, che si intitola Stato sociale si può cambiare così. Certo che le assonanze sono sempre ingannatrici. Beh, ha detto esattamente quello che hai detto tu a proposito della critica della statalizzazione dei servizi sociali e ha perorato il ritorno al mutuo soccorso. Allora io chiedo, ma non è stata una conquista il fatto che la sanità dell'operaio e persino del disoccupato venga pagata dalla fiscalità generale? Ma perché i poveri devono pagare le loro cure e non invece farle pagare ai ricchi? Perché questa è la logica del welfare, sarà una logica socialdemocratica, ma io non vorrei che mi si spiegasse perché non è una logica che deve rimanere e semmai essere radicalizzata e universalizzata. Non è un discorso di moda, però io credo che sia questo il problema. Chiudo ancora. Quindi veramente chiedo che mi si spieghi perché è inattuale questa lotta, che sia difficile, Marco, lo so, certo che è difficile, il capitale si mondializza, noi abbiamo sì e no una capacità di antagonismo su base nazionale, è evidente che è difficile, ma il punto deve essere teorico, perché è chiaro che anche quando si è nazionalizzato il capitalismo l'organizzazione dell'antagonismo è stata difficile, ma non per questo, come dire, si è introiettata come una frontiera non conquistabile, quella della nazionalizzazione. Oggi abbiamo una frontiera immensamente più complicata. In questo rispondo a Farina, che condivido in buona misura, ma non mi riconosco nella definizione di immobilismo, ancorché imperfetto. Io non credo affatto che sia immobile l'idea della organizzazione del conflitto tra, lo dico, capitale e lavoro. Aldo Bonomi dice: queste sono logiche del passato, se ho letto bene una pagina del suo libro. Io non credo. Ma come? Diciamo che tutta la società è messa al lavoro e poi diciamo che il conflitto capitale-lavoro è inattuale, ma spieghiamoci. Per modo mio di pensare, il conflitto è il conflitto capitale-lavoro. Ammetto, c'è un'enorme differenza, un'enorme difficoltà nella ricomposizione del soggetto messo al lavoro, ma questo non sposta di una virgola il punto teorico. Anzi, lo rende ancora più attuale. Dopodiché concludo davvero dicendo... Dice Marco, oggi lo Stato non è più in grado di redistribuire. Io non credo affatto che sia questo il punto. Non credo affatto che lo Stato non è in grado di redistribuire, Marco. Il problema è che se noi non guardiamo lo Stato per quello che è, cioè un terreno di conflitto di classe. Oggi lo Stato è in mano al capitale, dunque non è affatto vero che non è in grado di redistribuire. Non vuole redistribuire. Ma come? C'è un'enorme accumulazione di ricchezze e di profitti, non è in grado? Ma semplicemente noi ne siamo fuori. E allora dico a Tripodi, tu mi dici che è aberrante la logica di chi pensa che lo Stato vada conquistato, che lo Stato è il luogo delle regole, quindi della normazione, quindi della violenza. Allora io ti rispondo con una polemica amichevole. Io sono per le regole, a cominciare da un dibattito. Non esiste un dibattito in cui un intervento dura molto di più di due interventi messi insieme, vedi? Certo, probabilmente questa è una logica, come dire, violenta, è una logica regressiva. Io credo che la regola, nella misura in cui è una regola che vale per tutti, e nell'idea di dibattito c'è un gioco linguistico per cui ci sono i dibattenti e coloro i quali sono venuti a sentire i dibattenti e hanno diritto di sentire i dibattenti, ecco, io credo che una regola, nella misura in cui vale per tutti, è liberatoria. Il problema nostro è di essere coloro i quali decidono le regole. Non coloro i quali le criminalizzano, così le subiscono, perché comunque ci sarà sempre chi fa le regole. Questo è il problema, usciamo da questa minorità, perché questo veramente è una posizione, come dire, di ribellismo infantile. Io ripeto le cose, le dico come le penso, e chiudo con Marazzi. Io sono quasi interamente d'accordo, trovo il tuo intervento molto interessante, però c'è una sola cosa che vorrei chiederti. Tu dici come se, lo attribuisci a Weber, io... L'idea del come se l'attribuisco un po' più indietro che a Weber, no? E penso che ci sia dentro l'idea kantiana ancora una volta della universalizzazione. Anch'io credo all'idea del potere costituente. Però nella misura in cui il potere costituente deve agire come se, ha un vincolo ancora una volta di validità generale. E quindi pongo questa questione alla base del nostro ragionamento. Noi dobbiamo attestarci su questa divaricazione, il nostro fare, il nostro confliggere, il nostro organizzarci e il nostro ricomporre debbono avere come orizzonte la ricerca di prassi che, nella misura in cui sono universalizzanti, cioè di estensione dei diritti materiali virtualmente a tutti i soggetti, sono progressive. Tutto il resto, al di là dell'aspetto, come dire, poetico seducente, a mio modo di vedere è un'uscita dal capitalismo verso la regressione.